sarà vero che i valori più importanti per gli italiani restano Dio, Italia e famiglia? Lo dice l'ultimo rapporto del Censis, che parla anche di un calo del desiderio di consumare. Sarà perché non ci sono soldi? Comunque sia, ne parleremo con vari ospiti a Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.